Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. :16:05 in questo esatto istante. Buona giornata, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione e Roberta Frisani di là dal vetro, che darà musica e ritmo anche a questa puntata. Per porre domande o commentare i temi che tratteremo quest'oggi, vi ricordo che potete scrivere sulla pagina Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24, ovvero sulla mia, Giampaolo Musumeci, Twitter Nessun luogo 24 oppure Giampaz, e se avete il telefonino a portata di mano gli SMS al 349-238-6666. Parleremo fra le altre cose di immigrazione, ci tocca perché con un editoriale uscito ieri su Sunday Telegraph e Le Journal de Dimanche, Francia e Inghilterra, pensate un po', hanno chiesto aiuto. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. Perché i ministri dell'interno, rispettivamente britannico e francese, hanno scritto una dichiarazione congiunta, un editoriale appunto, con il quale puntualizzano quella che è la crisi dei migranti a Calais. Ma ci sono alcune righe particolarmente importanti che volevo segnalarvi. E che recitano più o meno così. Ciò con cui ci stiamo confrontando è una crisi migratoria di portata globale. La situazione non può essere considerata solamente nella prospettiva di un accordo tra le nostre due nazioni, inteso Francia e Inghilterra. È una priorità sia a livello europeo che a livello internazionale. Molti dei migranti di Calais sono arrivati qui attraverso Italia, Grecia o altre nazioni. Questo è il motivo per cui stiamo spingendo gli altri Stati membri e tutta l'Unione Europea ad affrontare il problema alla radice. E così firmavano Theresa May e Bernard Cazeneuve, appunto l'editoriale di ieri, un editoriale che farebbe saltare sulla sedia chi si occupa di immigrazione da tempo, ma anche chi ha seguito il dossier immigrazione da pochi mesi, perché vi ricordate che Cameron era uno dei leader europei più intransigenti nel dire no, io non voglio le quote dei rifugiati, qui non c'è spazio per nessuno, mando alla mia nave militare per salvare i migranti, ma sul territorio britannico non li voglio proprio. E poi però cosa succede? Che complice una ipertrofia mediatica su quello che sta accadendo a Calais, perché forse è vero, ve l'abbiamo raccontato anche noi con, come dire, toni drammatici, ma forse andando a guardare i numeri in realtà la situazione non è così drammatica, e complice questa ipertrofia mediatica sul fenomeno, insomma, i due governi si sono guardati in faccia e hanno detto vuoi vedere che forse dobbiamo parlare con anche gli altri stati europei, il problema non è solo italiano, non è solo greco, non è solo inglese, non è solo francese. Naturalmente solleticherò i miei ospiti su questo tema, ma prima andiamo direttamente a Calais, dove abbiamo raggiunto Philippe Vanesson, che è un attivista e anche un blogger, che innanzitutto ci parla della reazione dei cittadini di Calais a questa ondata di migranti. Alors par rapport à la présence d'exilés, c'est il y a à la fois du rejet et du racisme et de la solidarité. E poi plein de gens qui sono tra le due. Allora, Philippe Vanesson dice: ci sono sia episodi di razzismo che di solidarietà. Altri cittadini che non si pronunciano cercano di non guardare ciò che accade. Di certo, quello che è nuovo è l'attenzione mediatica, giornalisti, ministri che sono venuti in visita. Ma puntualizza Vanesson: attenzione, che è 15 anni che la situazione va avanti così, è 15 anni che chiediamo cose. Tutti hanno capito che il problema non è certamente a Calais, e sono 15 anni che i politici annunciano sempre le stesse soluzioni, che però poi non vengono applicate. Tra l'altro Philippe Vanesson puntualizzava come quella notizia che abbiamo dato anche noi dell'assalto di 2000 migranti in una notte sola, in realtà lui sostiene che il numero dei migranti era molto inferiore, alcune centinaia, ma gli stessi migranti hanno provato più volte a introdursi nel tunnel, quindi lui dice si è trattato di una sovrastima del numero di migranti che avrebbero tentato appunto l'assalto. Che cosa manca a Calais? Ho chiesto a Philippe Vanesson, attivista e blogger. Manca ad esempio un centro di accoglienza come poteva essere quello di Sangatte, chiuso poi nel 2003, sentite. Non, en tout cas ça peut être une solution sur le modèle de Sangatte en fait. E lui dice no, non può essere una soluzione sul modello di Sangatte, può essere una soluzione transitoria. Sangatte era un centro d'accoglienza che era gestito dalla Croce Rossa. In realtà dice ci vogliono soluzioni di accoglienza, perché quello che stiamo osservando è un fenomeno strutturale che è legato alla politica migratoria britannica, e così si spiega la permanenza di migranti qui a Calais. E poi lancia l'idea e dice, visto che si spendono decine di milioni di euro per la sicurezza del porto e del tunnel, centinaia di poliziotti dislocati, perché non destinare tutti questi fondi anche all'accoglienza, visto che ad esempio Calais è piena di edifici vuoti? Vanesson dice, potremmo costruire ostelli per accogliere i migranti. (347) 349, scusate, 238-6666, il numero per gli SMS che sono certo non mancheranno nemmeno quest'oggi sul tema immigrazione, ma poi parleremo anche di tanti altri temi, perché il weekend è stato ricco di notizie a livello internazionale. Allora, su questa, questo aiuto, su questa richiesta di europeizzazione del dossier migranti, una richiesta storica dal punto di vista soprattutto inglese e britannico, abbiamo sentito Lucio Battistotti, che è direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Sentite il suo commento su questa mano chiesta all'Europa. La Commissione lavora molto sulla ricollocazione e il reinsediamento, no? Sì. La ricollocazione, i 40.000, per cui non è stato ancora raggiunto il numero, cioè i richiedenti asilo Grecia e Italia, e il reinsediamento dei profughi siriani, diciamo. Sì. Ecco. Per quanto riguarda Dublino, diciamo, chiaramente ci si rende conto che questo sistema è superato dai fatti. Però come al solito, diciamo, la Commissione deve poi fare delle proposte basate su un'analisi dei risultati, poi bisogna trovare il consenso dei 28 Stati membri. Chiaro. Questo è il problema. Chiaro. Ecco. Lei sa che è previsto, diciamo, una verifica del funzionamento di Dublino solo nel 2016, ecco. Sì. Quindi diciamo, io non vedo delle possibilità immediate di cambiamento, se non però, diciamo, e lì vorrei sottolinearlo, il fatto che per la prima volta è stata presa una decisione sulla ricollocazione, sul reinsediamento dei migranti, perché diciamo, le istituzioni europee possono poco se non c'è l'accordo degli Stati membri, insomma, questo credo che sia fondamentale da dire, e del resto l'ha detto lei stesso, il fatto che guarda caso proprio quelli che hanno fatto l'opting out, cioè che sono fuori dalle decisioni, gli inglesi, adesso chiedono l'Europa, testimonia del fatto che quindi è necessario avere una politica europea per le migrazioni, insomma, anche guardando non all'oggi, ma neanche al domani, ma al dopodomani, insomma, no? Questo era Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che, a cui chiedevo conto intanto delle dichiarazioni appunto di Theresa May e di Bernard Cazeneuve, e poi appunto un commento su questo Dublino, che a mio parere è questo regolamento che impone al migrante, al richiedente asilo, di aspettare la richiesta d'asilo nel primo paese europeo che tocca, il che vuol dire nella fattispecie Francia e Italia, scusate, Grecia e Italia, che sono i paesi in prima linea a vivere questo fenomeno, e quindi che sopportano sulle loro spalle ovviamente il peso non solo della prima accoglienza, ma anche eventualmente della richiesta di asilo. 349-238-6666 per i vostri commenti. C'è Tonio dalla provincia di Cremona che dice, pensavo di dovermi vergognare di essere italiano per come viene gestita l'immigrazione, evidentemente devo vergognarmi di essere europeo. Diego da Venezia che dice, ma perché secondo lei i numeri non sono mai importanti, tra virgolette, e poi ti trovi ad ogni angolo di via, clandestini che chiedono la carità? Ma io non ho detto che i numeri non sono mai importanti. Nel caso di Calais citavo una fonte locale, è un attivista, è un blogger, che diceva attenzione che quei 2000 probabilmente non sono stati un assalto di 2000 migranti, ma alcune centinaia. Perché poi si trovano migranti ad ogni angolo di via che credono la carità? Non lo so, credo che dipenda dalle vie, credo che dipenda dalle città. È chiaro che quando uno osserva il fenomeno, mette il teleobiettivo, circoscrive il fenomeno a un quartiere, il fenomeno può avere impatti sociali devastanti e può essere molto molto importante. Certo, i numeri, che per me sono molto importanti, invece ci aiutano a ripartire, a guardare con oggettività il fenomeno. Che poi esista una gestione insufficiente del dossier, del fenomeno, chiamatelo come volete, a livello europeo, questo mi sembra che i fatti, insomma, ci stiano, la cronaca ci stia dando ragione. E poi Fabio che dice: era ora che si accorgessero anche Francia e Inghilterra che si tratta di un fenomeno europeo e dalle dimensioni epocali. Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, al quale ho chiesto appunto se, dato che il regolamento Dublino mostra le sue lacune, ho chiesto se il sistema delle quote, vi ricordate che si ipotizzava di redistribuire un certo numero di rifugiati, 32.000-40.000, tra alcuni paesi europei, ma su base volontaria, già questa insomma è un primo scricchiolare di questa proposta, il sistema delle quote può essere un primo passo? E che cosa si può ipotizzare al posto del regolamento Dublino, che scarica tutto il peso su Grecia, lapsus freudiano questo, su Grecia e Italia? Ascoltiamo insieme Battistotti. I regolamenti che riguardano il diritto di asilo hanno una storia di evolutiva. Effettivamente è vero che oggi noi ci troviamo un po' in imbarazzo per quanto riguarda la parte che riguarda il fatto appunto che il regolamento Dublino determina lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, no? Ecco, noi ci blocchiamo lì, ma teniamo presente che è dal 99 che l'Unione Europea si è impegnata a creare un sistema europeo comune di asilo e a migliorare il quadro legislativo, sicché siamo andati avanti su una strada, su una certa strada. È chiaro che questi flussi migratori, che non erano ancora prevedibili anche nel 2013, quando sono state concordate le nuove norme, cioè un sistema comune, sistema europeo comune di asilo, il Dublino 2, no? Per assicurare a tutti i richiedenti asilo ovunque presenti la domanda a parità di trattamento. Questo è stato un passo importante. Certo, oggi ci troviamo confrontati col fatto che, guarda caso, la maggioranza dei richiedenti asilo si presentano fondamentalmente alle frontiere di due stati mediterranei, cioè la Grecia e l'Italia. Ecco, perché non dimentichiamo che siamo in buona compagnia della Grecia. La Grecia è un paese piccolo, con i problemi finanziari ed economici che sappiamo, e che sta soffrendo di un impatto più o meno pari a quello dell'Italia in termini numerici, che però è molto più impegnativo per loro, tenuto conto che i greci sono 12 milioni. Insomma, ecco. No, io credo che il tutto, io sinceramente non sono un tecnico della materia, quindi non mi sento in grado di poter prevedere gli sviluppi giuridici. Quello che le dicevo, che ho sottolineato anche prima, è che una valutazione del sistema Dublino sarà fatta entro la metà del 2016 in vista della sua revisione. È chiaro che va fatta, diciamo, per darle un dato globale che penso possa interessare gli ascoltatori, scusate. Nel 2014 le domande di asilo in Europa sono state 626.715, è un numero impressionante effettivamente. Certo, noi dobbiamo poi vederlo, non dobbiamo lasciarci spaventare da questi numeri che sembrano importanti, ma vanno raffrontati con il numero di abitanti dell'Europa 28, che sono oltre 500 milioni, quindi sì, c'è un impatto, ma è comunque gestibile. Ed anche, e io credo che lì stia un po' la chiave anche della reinterpretazione del futuro, dobbiamo avere il coraggio di valutare quale sarà l'evoluzione della popolazione europea nei prossimi 30 anni e capire, cioè lo sappiamo già, ma forse dovremmo ancora approfondire di più ed essere più chiari, credo, con i cittadini, il fatto che la popolazione europea sta invecchiando moltissimo e che in sé non ha oggi le risorse per il ricambio, quindi vanno gestiti i flussi migratori, certo in un modo intelligente e lavorando soprattutto anche con l'altra sponda, cioè con i paesi da cui partono. Certo, oggi mi si dice che la Libia è un problema perché non c'è un governo, d'accordo? Speriamo che si stabilizzi anche la situazione, però ci sono molti paesi in cui sono presenti oggi delegazioni istituzioni dell'Unione Europea che potrebbero fare da primo filtro per diminuire l'impatto, ad esempio, della prima accoglienza, che oggi è sopportato fondamentalmente, come dicevamo, dalla Grecia e dall'Italia. E prima di introdurre il prossimo ospite, vi faccio sentire l'ultima battuta di Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che avete sentito, ha dato anche una scadenza: 2016 si ridiscuterà questo regolamento Dublino, che, lo ricordo ancora una volta, impone al primo paese toccato dal migrante l'espletazione della richiesta della domanda, appunto, di asilo. La questione delle quote, di cui si è discusso, distribuite però su base volontaria, a me, dal mio punto di vista, opinione assolutamente personale, mi sembra ancora una volta una mancanza di coesione da parte dell'Europa, perché si dice il dossier immigrazione va gestito a livello europeo, ma poi ognuno fa quello che vuole. Leggi la Gran Bretagna che si rifiutò, leggi l'Ungheria che si è rifiutata. A me, insomma, sembra una mancanza di coesione. Sentite ancora Battistotti. Allora, lei lo vede mezzo vuoto, io lo vedo mezzo pieno, perché se penso a 4 mesi fa, in cui parlare di quote e di ricollocazione era una bestemmia, ecco, siamo andati avanti. C'è un presidente della Commissione Europea, Juncker, che avrà sicuramente molti difetti, ma che sul dossier immigrazione ci ha messo la faccia, ha detto: io voglio risolvere questa situazione, dovete vergognarvi se non prendete sul vostro territorio, appunto, i migranti che sono in pericolo di vita e vengono da noi cercando sicurezza, e poi possono anche costituire una risorsa per il futuro. Quindi io la vedo abbastanza con fiducia, e, come le dicevo, sono molto fiducioso sul fatto che gli Stati europei, i 28, sapranno poi guardare più avanti, cioè mettersi, come le dicevo, se noi abbiamo l'intelligenza e l'onestà intellettuale di vedere quale sarà il nostro futuro di qui a 30 anni e i bisogni che avremo, beh, in questo caso il problema lo risolveremo. Ed era Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che invocava ed evocava una visione per il futuro dell'Europa. Certamente, a leggere le dichiarazioni di Theresa May e Bernard Cazeneuve, questa visione sul futuro non c'è, perché se un mese fa David Cameron, il premier britannico, diceva il problema italiano, il dossier immigrazione, il problema italiano sono fatti vostri, il problema francese, adesso, ieri, con questo editoriale, lo ha eletto a problema europeo. E proprio su questo vorrei interrogare il prossimo ospite, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano, la professoressa Alessandra Venturini, che è vice direttore del Migration Policy Center e insegna politica economica all'Università di Torino. Professoressa Venturini, benvenuta. Grazie infinite, benvenute, buon lavoro. Grazie. Allora, professoressa, il primo commento. Per la prima volta anche Cameron e il suo ministro chiedono aiuto all'Europa. Come commentiamo questo cambio di faccia un po' schizofrenico dal punto di vista politico? Beh, è molto importante, perché bisogna prima di tutto ricordare che la politica migratoria è degli Stati membri, cioè non è una prerogativa europea comunitaria. La comunità europea può fare molto per uniformare le normative, il riconoscimento dello stato di rifugiato politico, per esempio con la revisione delle direttive, però è sempre lasciata agli Stati, è di competenza degli Stati membri. Nessun Stato membro ha delegato all'Europa questa normativa, quindi questo fa sì che i paesi del continente abbiano deciso di aderire a Schengen e quindi di aderire come Stati alla libera circolazione dei cittadini europei sul territorio. La Gran Bretagna no. Quindi ci sono tanti livelli di integrazione, di possibilità di integrazione della politica migratoria, e la Gran Bretagna per ora era completamente esterna. Quindi è un grosso passo avanti, perché è molto importante che ci sia una competenza sul tema della migrazione che non sia demandata solo ai singoli stati, e quindi non ci sia un diverso trattamento. Sicuramente ci devono essere adeguamenti alle condizioni dei singoli paesi, però sì, è molto molto importante, soprattutto fatto dagli inglesi e soprattutto fatto finalmente dopo che anche loro si sono trovati a dover affrontare questa grande pressione migratoria. Sì, e fra l'altro viene da dire, gli ultimi eventi di Calais hanno messo a nudo il re, o forse dovremmo dire la regina, certo, visto che stiamo parlando del Regno Unito. 349 238 66 6666 per i vostri commenti, le vostre domande, oppure Twitter, Nessun Luogo 24, Giampaz, oppure Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. C'è un ascoltatore, ad esempio Alberto da Lecce, che dice: gli albanesi smisero di arrivare in Salento quando l'Albania si stabilizzò. Allo stesso modo, se non risolviamo i problemi in Africa, avremo sempre enormi flussi migratori. C'è chi, Silvano da Vicenza, invece dice: migranti o clandestini, mettiamoli su navi e sbarchiamoli sulle coste centrafricane. E poi c'è Alessandro che dice: parlate dell'immigrazione come di un problema, ma non sono risorse. Francamente non ho capito bene il tenore del messaggio, ma se era un'accusa dicendo lo trattate come un problema quando invece può essere una risorsa, lungi da noi, direi il contrario. È opinione mia personalissima che se l'immigrazione fosse ben gestita si tramuterebbe decisamente in una risorsa e non sarebbe assolutamente un problema. C'è Max da Torino invece che punta il dito sulla politica e dice: i politici sono fallimentari, bisogna che del problema profughi e immigrazione se ne occupi chi conosce il problema, non chi ha bisogno di aprire la bocca per raccattare voti e fare danni con propaganda errata. Siamo con la professoressa Alessandra Venturini, vice direttore del Migration Policy Center, che è professore di politica economica all'Università di Torino. La seconda domanda per lei, professoressa: visto che con Battistotti ho insistito parecchio su questo regolamento Dublino, è secondo lei il superamento di questo regolamento la chiave per gestire meglio il dossier immigrazione? Beh, sicuramente Dublino è nata per indurre i paesi ad un comportamento virtuoso, ossia per far sì che i paesi sottoposti a pressione migratoria di rifugiati, così, non lasciassero aperte le porte, ma cercassero di controllare le frontiere, cioè obbligava i paesi che erano vicini alle aree di pressione a farsi carico del controllo delle frontiere. E quindi questo comportamento virtuoso che Dublino suggeriva, aveva nella propria strategia, è diventato ormai invece un motivo per un comportamento non virtuoso, cioè i paesi che sono alla frontiera, che quindi ricevono sulle proprie coste un numero troppo elevato di persone che domandano asilo, che cercano di ottenere uno stato di rifugiato politico, non necessariamente vogliono fermarsi da loro, e poi sono talmente numerose che i paesi non riescono più a farsene carico. Allora, da questo punto di vista, Dublino, che era nata per indurre un comportamento virtuoso dei paesi, cioè il controllo delle frontiere, così, invece in questa maniera induce ad un comportamento non virtuoso, quindi a non rispettare le regole, perché non riescono i paesi, la Grecia e l'Italia, pensate all'isola di Lampedusa, non riescono a far fronte, quindi a registrare tutti gli stranieri che arrivano e a incanalarli verso le procedure di domanda di rifugiato politico. E poi, tra l'altro, una cosa che è molto importante, sì, per trasformarsi da immigrato illegale in un paese a rifugiato politico c'è tutta una lunghissima trafila da fare, sì, amministrativa, che prende almeno un anno, ma anche in Germania, anche in Svezia, sono procedimenti lunghi. Allora, la prima cosa, oltre a rivedere il Trattato di Dublino, bisognerebbe rivedere le procedure, sì, e accorciare queste tematiche, sì, e, come mi sembrava accennasse Battistotti prima, aumentare la possibilità di questi che si dicono resettlement diretti, cioè che le persone non debbano arrivare in Europa per poter chiedere lo stato di rifugiato politico, certo, ma avere delle antenne nei paesi di origine, come ha l'Alto Commissariato ai Rifugiati, che però impiega molto tempo a espletare tutte queste pratiche. Certo, fra l'altro la soluzione che prospetta lei, professoressa, spunterebbe le armi e le organizzazioni che fanno del traffico dei migranti il loro business principe. Se noi pensiamo che un rifugiato siriano deve spendere 5-10 mila dollari per mettere in salvo se stesso e la sua famiglia, mentre l'Europa non dà loro la possibilità di fare la richiesta di asilo, l'Europa è colpevole nel momento in cui non dà un servizio ai rifugiati, ai richiedenti asilo, e invece questo servizio viene espletato da organizzazioni criminali. Io ricordo che, secondo alcune stime, il Mar Mediterraneo da solo vale almeno 600 milioni di euro l'anno, certo, che vuol dire una massa enorme di denaro che, data l'inazione europea, finisce nelle tasche di organizzazioni criminali. Allora, Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti e i vostri messaggi. C'è già l'informazione sulla borsa. Allora andiamo a sentire come vanno le borse e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun Luogo è Lontano. Di nuovo Nessun Luogo Lontano, ben ritrovati gentili ascoltatrici e ascoltatori. Chiudiamo questa pagina dedicata a questo cambio di marcia della politica britannica con questa richiesta di europeizzazione sul dossier immigrazione che è venuta da Cameron e anche, anzi, da Theresa May, ministro dell'interno, e anche da Bernard Cazeneuve, omologo francese. Siamo con Alessandra Venturini, vice direttore del Migration Policy Center e professore di politica economica all'Università di Torino. L'altra domanda è questa: ci siamo concentrati sui rifugiati e sull'articolo sul regolamento Dublino. I rifugiati sono una parte dei migranti che arrivano in Italia, poi c'è la cosiddetta quota dei migranti economici, cioè persone che non fuggono da guerre o da persecuzioni, ma che in ogni caso stanno cercando di cambiare vita e vogliono venire in Europa senza averne titolo. Riguardo al tema dei migranti economici, professoressa? Ma guardi, vorrei prima di tutto che fosse chiara una cosa, perché poche persone sanno che il 50% degli stranieri che sono in Europa e quindi è anche in Italia sono entrati attraverso il canale dei ricongiungimenti familiari. Quindi l'immigrato è entrato negli anni 80 in Italia per motivi esclusivamente di lavoro, poi ha ricongiunti membri familiari. Quindi sul totale dell'immigrazione, cioè sullo stock degli stranieri che sono in Italia, il 30% sono entrati attraverso il canale proprio del lavoro, della domanda di lavoro. Il 50% sono entrati come ricongiunti familiari e poi c'è un 20% di rifugiati. E questo vi sembrerà strano, ma in realtà è il trend di tutti i paesi europei. Negli Stati Uniti il 70% delle persone che entrano attraverso questo canale. Quindi è un po' come dire le porte, no? Entrano attraverso porte diverse, la porta dei congiungimenti familiari, su cui sicuramente il ciclo economico influenza molto meno che attraverso la porta per motivi di lavoro. E i rifugiati chiaramente hanno un altro motivo di accesso. Certo, certo. Fra l'altro, professoressa, la interrompo perché un SMS mi sollecitava. Luca, si continua con la propaganda pro-immigrati basata su bugie. La verità è che chi scappa dalla guerra è una minoranza esigua e non hanno nessuna riconoscenza, tutto diritti, nessun dovere o un grazie. Così Luca, a leggere i dati del Viminale, del Ministero dell'Interno, in Italia sugli sbarchi del primo semestre 2015 i rifugiati erano il 31%, nel momento accogliamo circa 84.000 richiedenti asilo. Poi non ho capito che propaganda pro-immigrati sto facendo e basata su quale bugie, ma questo Luca ha tempo ancora una mezz'oretta di trasmissione per rispondermi. Io però ho tempo di ringraziare la professoressa Venturini per essere stata con noi. Professoressa, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. La professoressa Venturini, che insegna politica economica all'Università di Torino ed è vice direttore del Migration Policy Center. A questo punto il tempo inizia a stringere, cambiamo pagina velocemente, lo avete sentito anche dall'anteprima delle 13, voglio tornare a occuparmi di Turchia. Perché? Perché è stato un weekend ad altissima tensione appunto nel paese dopo svariati attacchi attribuiti al PKK. L'avete sentito alle 13, ci siamo collegati e lo rifacciamo in diretta con Ankara, dove c'è Valeria Giannotta, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Associazione dell'Aeronautica Turca. Professoressa Giannotta, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Questa escalation di violenza nel weekend appena trascorso inizia a essere preoccupante, perché sono almeno 3 gli attacchi con svariati morti e decine di feriti che il PKK avrebbe portato contro obiettivi militari. Era prevedibile una reazione così violenta, secondo lei? Era prevedibile un'escalation di violenza nel momento in cui il processo negoziale comunque ha subito una battuta d'arresto. Dobbiamo ricordare che già nel maggio del 2013 l'attuale partito al governo, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, e il leader del PKK attualmente in carcere, sta scontando l'ergastolo nel carcere di alta sicurezza in Rally, avevano intavolato un processo di pace e quindi di riconciliazione con i settori curdi della società. Questo processo di pace prevedeva diversi step, diversi livelli, il primo del quale avrebbe condotto al disarmo da parte delle milizie del PKK e il ritiro dai territori curdi verso le montagne di Kandil nel nord irachino. Sostanzialmente è stato un processo che ha incontrato serie difficoltà, è stato un processo sostanzialmente bilaterale portato avanti quindi dal governo e dalla controparte curda rappresentata dal partito, dall'attuale partito di sinistra libertario democratico del popolo. Sì. Quello che è successo è che già dopo le elezioni amministrative dell'anno scorso, quindi parliamo del marzo 2014, sostanzialmente a livello politico ci si è accorti che effettivamente esiste un Kurdistan turco. Quindi la compagine curda ha iniziato ad acquisire sempre più e questi ha scompaginato un po', come dire, i piani dell'attuale governo, sì, quello di mantenere una maggioranza assoluta dei voti in Parlamento. Sì. Cosa che effettivamente non è successa a fronte delle scorse elezioni del 7 giugno del 2015, quindi poco meno di un mese fa. Sì. Ora sostanzialmente si può dire che il processo di pace è sostanzialmente fallito, perché il cessato il fuoco appunto proposto da Ocalan nel 2013 in realtà non vi è più, no? Quindi vi è un'escalation di violenza volto ad attaccare e a colpire degli obiettivi precisi, quali i simboli dello Stato turco. Quindi sono state vittime militari, ma anche appartenenti ai corpi di polizia. Sì. Ecco, però questo... dal punto di vista, chiedo scusa, la interrompo, no? Dal punto di vista internazionale, questo innestare la quinta da parte di Erdogan con l'alibi vado a colpire ISIS, ma invece va a colpire PKK, che è il grande nemico, non è un grandissimo autogol, almeno dal punto di vista internazionale, perché è agli occhi tutti puntati. Ormai, come dire, l'alibi del colpisco ISIS ha retto poche ore, perché tutti gli analisti immediatamente hanno detto attenzione qua, in realtà il vero nemico è il PKK. Quanto perde di credibilità Erdogan dal punto di vista internazionale, ma forse non è quella la sua missione, no? Il suo obiettivo? Sì, io farei un passo indietro però, cioè il vero obiettivo di Erdogan è la lotta al terrorismo, quindi parla di terrorismo in termini generali, quindi terrorismo che ha in casa, cioè l'ULEISI, più o meno dormienti, che ha tentato di colpire non con la stessa vehemenza con cui sta colpendo il PKK, sì, e il PKK è riconosciuto come organizzazione terroristica non solo in Turchia ma anche dalla comunità internazionale, quindi facciamo riferimento agli Stati Uniti, Stati Uniti, parte, sì, paesi europei. E fa bene a ricordarlo. Esatto, ora questo la spiegazione si può giocare su due livelli. Da un punto di vista regionale, il vero timore della Turchia, indipendentemente dal colore politico del partito al governo, è quello che si venga a creare un'enclave curda ai confini siriani, quindi ai confini sud-est anatolici con la Siria. Ricordiamo che quella zona, comunque le maggiori forze che attualmente stanno combattendo contro l'ISIS, che stanno avanzando verso i confini turchi, sono il PYD, ossia l'ala siriana del PKK. Quindi si vuole in un certo senso con queste misure evitare che si venga a creare una sorta di indipendenza curda ai confini della Turchia e questo venga a fomentare ulteriormente l'eventualità dei settori turchi della società di reclamare un'indipendenza curda all'interno dei confini turchi. Questa sarebbe un'opzione poco digeribile un po' da tutti i settori della società turca. Detto questo, ci sono però dei calcoli di politica interna molto, come dire, molto, molto ovvi. Appunto, come ho detto prima, l'attuale partito al governo, anche se in realtà ancora non abbiamo un governo perché stanno cercando di creare una coalizione, proprio perché nelle ultime elezioni non sono stati in grado di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Però queste elezioni hanno rappresentato una novità, cioè per la prima volta nella storia un partito filo curdo di sinistra libertaria, quindi capeggiato da Selahattin Demirtas, è entrato in Parlamento sorpassando la soglia di sbarramento del 10%, anzi ha ottenuto 80% dei seggi parlamentari. Quindi andando a colpire comunque l'ala armata del settore curdo della società, lei ha menzionato Erdogan, ma faceva riferimento ad Erdogan, quindi il partito della giustizia e dello sviluppo, sì, sta facendo sempre di legittimare sostanzialmente questo partito filo curdo che è comunque all'interno del Parlamento, proprio perché la maggior parte del supporto popolare dell'HDP deriva dai settori curdi della società E appunto, come lo stesso Celestine de Mestache ha dichiarato ultimamente, non esiste una famiglia curda che abita nel sud-est anatolico che non abbia legami con le montagne di Kandil, quindi non abbia legami diretti col PKK. Sì. Quindi sostanzialmente recidere i contatti col PKK potrebbe giocare a sfavore dell'attuale partito al governo, ma fomentare comunque una violenza, una sorta di escalation di violenza, quindi dimostrare che effettivamente una minaccia terroristica è presente sul territorio curdo, sul territorio turco, e quindi è una minaccia che tende a colpire i simboli dello Stato, potrebbe delegittimare il partito l'HDP a fronte delle prossime elezioni, che appunto, se non si riesce a creare una coalizione, come sostengo che non si riuscirà a creare entro il 23 di agosto, sembra elezioni anticipate prima di novembre. Sì. Professoressa Giannotta, stiamo parlando alcuni minuti di PKK, ascoltiamo insieme questa fotografia del movimento. Formatosi come movimento di ispirazione maoista, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan viene fondato nel 1978. A capo del gruppo indipendentista c'è Abdullah Öcalan, che porta avanti una campagna in favore di quella che definisce l'autonomia democratica del popolo curdo. Il Kurdistan, sostiene, è una nazione autonoma rispetto ad Ankara, con un'organizzazione basata sulla partecipazione popolare diretta. Sostenuto prevalentemente dalle masse popolari, il movimento intensifica la lotta armata dopo il colpo di stato militare del 1980 e in particolar modo dopo la svolta democratica dell'84. Il susseguirsi di attentati convince Turchia, Stati Uniti e Unione Europea a inserire il PKK nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali, con Öcalan che diventa così uno degli uomini più ricercati del mondo. È nel 1998, ormai braccato dall'intelligence turca, che il leader curdo chiede asilo politico in Italia. Il governo D'Alema, però, lo concederà solo dopo il trasferimento in Kenya, con successiva estradizione in Turchia. Scongiurata la pena di morte e condannato all'ergastolo, Öcalan dal carcere rivede le sue posizioni, arrivando a chiedere nel 2006 un cessate il fuoco e un processo di pace con Ankara, armistizio che, prima degli ultimi scontri con il governo Erdogan, durava ormai da 2 anni. E questo è il tratteggio del nemico numero uno di Erdogan. Adesso l'informazione sul traffico, poi l'ultima domanda per la professoressa Giannotta. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun luogo è lontano e l'ultimissima domanda è, prego, Valeria Giannotta, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Associazione Aeronautica Turca, di essere telegrafica, se è possibile, su questo. Come Demirtas potrebbe rispondere dal punto di vista politico nello scacchiere turco? Insomma, mi sembra chiaro dalle sue parole, professoressa, che Erdogan sta tentando di indebolire anche dal punto di vista della legittimità e della credibilità appunto il partito curdo. La risposta di Demirtas quale potrebbe essere, secondo lei? Probabilmente esortare le milizie del PKK a deporre le armi e in questo modo non fare il gioco che vorrebbe Erdogan, cioè quello di far perdere legittimità all'unico attore politico che rappresenta le istanze curde presenti in Parlamento. Chiaro, grazie anche per essere stata così telegrafica. Professoressa Giannotta, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, rispondo al volissimo un ascoltatore, sempre su tema immigrazione, che mi aveva detto: ma state dicendo delle fesserie perché la popolazione europea non sta invecchiando. Adesso recuperiamo anche i dati a livello europeo. A parte che non ero io a dire fesserie, al limite, ma era Battistotti. Quindi, comunque, detto ciò, secondo l'Istat la popolazione italiana è a crescita zero, cioè il saldo tra nascite e morti non è mai stato così basso dalla Grande Guerra. Ma poi, se vorrete, ci torneremo su questo tema della crescita demografica. Mi prenderò poi l'ultimo minuto e mezzo per rispondere al volissimo a alcuni altri sms, sempre sul tema immigrazione, che è quello che scalda di più. Ma adesso cambiamo pagina e l'ultimissima parte di Nessun luogo lontano è tutta africana. Il virus Ebola è stato identificato per la prima volta nel 1976 nella Repubblica Democratica del Congo. Si pensa che possa aver avuto origine da pipistrelli della frutta, ma colpisce e si trasmette negli uomini e nei primati. Febbre, diarrea e vomito. In molti casi l'esito è la morte. La recente epidemia è scoppiata in Guinea, nella provincia del Gekedu, dove il 23 marzo 2014 è stato registrato il primo caso. Entro la fine di marzo, Ebola attraversa il confine della Liberia ed in maggio viene confermata anche in Sierra Leone. Medici Senza Frontiere lancia l'allarme, dichiarando l'epidemia fuori controllo. Ma nel frattempo il virus raggiunge anche Nigeria e Senegal. Nell'agosto del 2014 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza internazionale. A 16 mesi dallo scoppio dell'epidemia sono stati registrati 11.284 decessi, mentre il numero dei contagi supera le 27.000 unità. Fuori dal continente africano, Ebola ha fatto registrare meno di 30 casi, tutti causati dalla permanenza dei soggetti nei territori africani colpiti dall'epidemia. Le cure si sono rivelate efficaci nella maggior parte dei casi, ma 3 persone sono morte, 2 negli Stati Uniti e 1 in Spagna. Il 31 luglio la lotta contro Ebola sembra però essere giunta a una svolta definitiva. La rivista medico-scientifica inglese Lancet annuncia la scoperta di un vaccino, ideato dall'Agenzia di Sanità Pubblica canadese e in seguito sviluppato dalla casa farmaceutica Merck. La sperimentazione è stata effettuata in Guinea-Conakry su 4.000 individui, ma le dichiarazioni degli esperti sono comunque improntate alla cautela, in attesa di nuovi dati. Margaret Chan, direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha comunque definito promettenti ed entusiasmanti i primi risultati. E sentiamo se è entusiasta anche un altro tecnico, un altro esperto, che è Saverio Bellizzi, epidemiologo di Medici Senza Frontiere, che noi sentimmo proprio l'anno scorso in piena crisi Ebola. Dottor Bellizzi, buongiorno, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, l'eredità di Ebola, abbiamo ricostruito i numeri, l'impatto, che poi in realtà a posteriori è vista anche il potenziale numero delle popolazioni coinvolte, quando si furono i primi casi anche in Nigeria, si pensava alla Nigeria così popolosa, alla fine, pur nella tragedia di una grave epidemia, insomma, i morti sono stati circoscritti, grazie anche all'intervento di organizzazioni come le vostre. Però è rimasta un'eredità, dottor Bellizzi, perché chi era ammalato di Ebola ha vissuto uno stigma sociale, doveva essere per forza di cose allontanato, chiedo scusa, dalla comunità. E poi però quelli che sono guariti o quelli che poi non erano effettivamente malati hanno faticato a tornare nei villaggi, nelle società. Che eredità ha lasciato Ebola? Beh, sicuramente, soprattutto nelle zone forestiere dove permangono ancora particolari credenze e cose del genere, molte persone che sono ammalate sono state identificate come delle streghe, dei possibili origini di sortileggi. Le stesse persone che sono guarite molto spesso hanno dovuto cambiare villaggio proprio perché erano ancora viste di malocchio e non potevano rimanere all'interno dei gruppi sociali in cui erano prima. Quindi difficoltà sì dal punto di vista medico sanitario, ma dal punto di vista anche sociopolitico, molto complicata la cosa. Sì, quindi è un'eredità, diciamo, che appunto ha avuto un impatto anche sulle abitudini, insomma, sui costumi sociali, in popolazioni, in culture in cui il contatto fisico è fondamentale, in cui ci si abbraccia, in cui ci si stringe la mano continuamente, e credo che anche voi operatori, quando operavate lì, tenere le distanze non era facilissimo, anche per entrare in contatto con loro, no? Per acquisire la fiducia e quant'altro. Sì. Esattamente, un esempio veramente lampante l'avevo avuto in Liberia, quando ero andato a settembre in Liberia, dove praticamente ogni persona a Monrovia poteva essere un contatto di un caso di Ebola perché era un po' dappertutto. Era veramente interessante vedere come il cambiamento sociale dall'abbracciarsi, dal toccarsi, si fosse passati al gesto di ciao ciao, che nella cultura africana è particolarmente difficile da trovare. Quindi c'è proprio un cambiamento nell'atteggiamento delle persone. Sì. E noi stessi, come tu anticipavi, non ci potevamo nemmeno stringere la mano a vicenda per diminuire appunto la possibilità di un minimo trasmissione di qualsiasi altro tipo di virus, che però poteva causare delle paure se si fosse sviluppato un raffreddore o altro. Certo. Saverio Bellizzi, quanto sei ottimista su questa scoperta di 2 giorni fa, questo vaccino che dovrebbe essere efficace? Tu, da epidemiologo, che idea ti sei fatto? Ottima notizia, anche perché nonostante il campione di sperimentazione sia piccolo, però gli studi preliminari hanno appunto mostrato un'efficacia del 100% e soprattutto una non nocività delle persone che si sono state. Sì. Quindi ottimo, bisogna continuare con la sperimentazione, però è un'arma in più questa, valida. Certo, e adesso veniamo alla domanda cattiva, Saverio Bellizzi, perché come spesso accade quando c'è un intervento occidentale, un intervento bianco, adesso non so, vorrei definirlo in punta di penna, comunque un intervento non africano, europeo, in alcuni stati africani si pone sempre il solito problema della deresponsabilizzazione di questi stati, cioè voi avete fatto come MSF un intervento straordinario di urgenza, ma in qualche modo lo avete tolto a chi avrebbe dovuto gestire l'emergenza, il Ministero della Salute della Guinea-Conakry, della Liberia, della Sierra Leone. Che tipo di risposta hai avuto e hai visto nella crisi Ebola da parte di questi tre governi africani? Sicuramente all'inizio c'è stata un'iporeattività da parte dei tre governi, soprattutto per paure, per altri tipi di paure, per ripercussione e danni degli stati stessi. È anche però vero da dire che molti di questi stati, in particolar modo la Liberia, ha perso molto personale medico sanitario. Molte di persone morte proprio all'inizio dell'epidemia sono state medici e infermiere, perché le persone andavano a farsi curare nei centri di salute. Allo stesso tempo bisogna anche ricordare che c'è una mancanza spesso di persone tecniche proprio che abbiano esperienza di questo tipo di epidemie. Per questo l'arrivo di persone con un certo background ha notevolmente migliorato le cose nel momento in cui si è intervenuti massicciamente. Sì, e allora ti provoco ancora, poi ti lascio andare al tuo lavoro. Chi è che ha sconfitto, chi è che sta sconfiggendo Ebola in fin dei conti? Sconfiggendo Ebola tutti quanti insieme, infatti grazie ai medici senza confini è venuto subito ed è riuscito ad arginare in parte il tutto nei primi mesi. E poi si è visto come ci si è intervenuti tutti insieme con le altre organizzazioni. E ricordiamo che gli operatori sanitari locali hanno giocato un ruolo predominante, perché sì, abbiamo l'intervento straniero, però gran parte, la gran maggioranza, un 90% direi della forza lavoro sono gli operatori locali. Beh, il lavorare tutti insieme in tandem ha favorito appunto la situazione attuale, in cui abbiamo ancora casi, ma notevolmente migliorato. E speriamo naturalmente che questi casi si riducano a zero. Grazie Saverio Bellizzi, epidemiologo di MSF. Buona giornata e buon lavoro Saverio. Buona giornata. E diamo un po' di numeri, perché nonostante quello che mi diceva un ascoltatore, i numeri sono molto molto importanti. I costi di Ebola non sono stati solo i morti, l'impatto sulla società di questi 3-4 paesi africani toccati dal virus, ma sono stati anche costi monetari. Secondo la World Bank, la Banca Mondiale, ha destinato solo per il 2015 1,6 miliardi di dollari per Guinea, Liberia e Sierra Leone. La Commissione europea più gli Stati membri hanno donato 1,8 miliardi e altri 450 milioni di euro sono stati decisi, verranno donati, e la decisione risale al 10 luglio 2015. Questo per dare un'idea di costi anche di un'epidemia di così alto impatto nel paese africano. E se volessimo fare anche un legame con l'immigrazione, c'era qualcuno, ricordate, che diceva che sui barconi arrivavano gli ammalati di Ebola, poi grazie anche a testimonianze come quella del dottor Bellizzi, questo infondatissimo allarme fu reso vano. Sempre collegato a questa storia di Ebola, ho ritrovato sul New York Times di quest'oggi una denuncia molto molto importante. Vi faccio sentire uno stralcio audio. Nothing I know about MOU good. All thing upon you is bad. My own thing. Say you think that all the thing the MOU is bad. And you will be signing. E la voce che sentite è una delle testimonianze raccolte da Global Witness, che è un'associazione non governativa che si è occupata durante la crisi Ebola in Liberia di una compagnia indonesiana che si sarebbe approfittata della crisi sanitaria vigente nel paese, della mancanza di comunicazione tra i villaggi, per andare fondamentalmente a imporre la propria presenza e a comprare a prezzo irrisorio non solo vastissimi terreni per poter coltivare olio di palma, ma anche per andare ad assoldare forza lavoro. Se andate su globalwitness.org, l'indagine, l'inchiesta si chiama The New Snake Oil, ripresa anche quest'oggi dal New York Times. Era l'ultima storia di oggi, titoli di coda. E quindi un grazie a Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Roberta Frisani in regia, voi che siete stati all'ascolto e così in tanti avete scritto al 349-238-6666. Ci saranno altre storie da commentare, questo domani alle 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.